sei una Barbie. Non ti trucchi mai. Forse è questo che mi piace di te, di te. Tu non sei alla moda, vesti come vuoi. Forse è questo che mi piace di te, di te. E sento che il tuo cuore lo sa, tu mi renderai la testa. Forse ancora non ci credi, forse ancora non ci credi. Una Barbie, non ti trucchi mai, forse è questo che mi piace di te, di te. Una Barbie.